occhi rotti, mille pezzi, non rifletteranno più la luna. Il futuro a volte gioca brutti scherzi, dalle nubi cade la sfortuna. Con le spalle al cielo, nuova direzione che mi porta indietro da te. Nebbia di pensieri, chiara confusione, scivolando attorno da te. Cerco parole, ti rubo d'amore, per poterti cantare la verità. Cerco parole, ti rubo d'amore, che mi facciano dire tutta la verità, solo la verità. Stasera non ho niente da indossare, la veste del pagliaccio si è scucita. Tempo ci sarà per farmi perdonare, cura troverò per la ferita. Taglio i miei pensieri come fossi un sarto che rammenda vecchi calzoni. Prima che sia notte ridurrò lo scarto, inseguendo le mie illusioni. Cerco parole, mi rubo d'amore, per poterti cantare la verità. Cerco parole, ti rubo d'amore, che mi facciano dire tutta la verità, solo la verità.